Pensa a due bambine cinesi che fanno. Non ti dice niente. No, non mi dice niente. Come mi dice come che tu hai dei problemi. Dici. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Ciao. Ciao, allora domani recita. Recita. Quindi mi raccomando, arrivate per tempo. Alle 21 comincio, quindi arrivate alle 19 tipo. Esatto, tutti disciplinati, fermi. Due ore prima, come per andare a vedere Paul McCartney. Esattamente così, fate i bravi, soprattutto i bambini. Anzi, consiglio ai genitori, portatevi guinzagli e museruole. Sì, bravo. E anche la scopetta e la paletta per raccogliere la cacca. Drago, ma cosa dici? Se sporcano, quindi ma non abbiamo la copertura. Io sono un po' emozionato in realtà, perché non faccio recite di Natale da non so da saranno 38 anni anch'io, forse. Anch'io l'ultima ero all'asilo, appunto, ancora le foto, se vuoi te le faccio vedere. Le suore mi travestirono da Hitler, ecco. Ed ero protagonista di uno sketch assurdo, mi ricordo, in cui facevo marciare un plotone di bambini vestiti da truppa . E ce n'era uno sempre che, quando davo l'attenti, si metteva a starnutire e io non capivo chi era. Allora mandavo via dal plotone uno, poi l'altro, ma finché l'ultimo che rimaneva. Ma cosa vuol dire Hitler all'asilo a Natale con i baffetti finti, la divisa, tutto quanto. Ma in che asilo sei andato, Drago? In un asilo lager. Questo è molto divertente. No, scherzi, in un asilo di suore, era il 1970. Quindi L'LSD era già fuori legge da un po'. Però evidentemente in quell'asilo ne avevano un po' d'avanzo. Con la bambolina di Adolfo il Dittatore, i vostri bimbi potranno imparare la storia giocando. Non sprecate tempo e denaro in inutili lezioni private. Con Adolfo il Dittatore, i vostri figli entreranno in contatto con uno dei più straordinari personaggi storici di tutti i tempi. La bambolina è maneggevole e sicura, realistica e snodata. Potete ordinarla in varie versioni. Adolfo con la t-shirt, Arbeit macht frei, Adolfo con la dolce vita, Gott mit uns, e Adolfo in un originale costume da bagno disegnato da Leni Riefenstahl. Non private i vostri bimbi del piacere di imparare la storia giocando. Comprate loro Adolfo il Dittatore. Dittatore! Sieg Heil! Springtime for Hitler in Germany. He's happy and gay. Die deutsche Nation. E ora, bambini, ricreazione. Ah, bambino Alberto! Ricreazione! Dai, la fiaba! Ricreazione! Cappuccetto rosso! Ma perché? No! Cosa? Ma qui sono in sbattimento totale. Fosse una novità questa. C'è poco da ridere. No, perché grazie alla mia abilità di spia di Sua Maestà Britannica, James Bond. Voi sapete che non parlo a vanvera. Certo. Ho scoperto che i miei genitori stanno aspettando da anni un risarcimento miliardario. E da chi? Da un ospedale. E poi ho scoperto che è l'ospedale dove sono nato io, no? E perché starebbero aspettando questo risarcimento? Perché quando mia madre era incinta di me, cioè che mi aspetta, che aveva il la pancia. Il mistero della. Sì, vabbè, adesso andiamo. Aveva fatto la funicolocentesi. Sì, la funicolare. No? E cosa sarebbe? Cos'è? La funicolocentesi. Ma sì, vabbè, quello che è. È un esame, no? È un esame per sapere se il bambino che sta per nascere è sano. Sì. Che sta bene, no? E dunque questo esame evidentemente non aveva dato degli esiti tanto chiari, e quindi bisognava ripeterlo entro non oltre la 24esima settimana. Mamma che mia, poi quello lì è il termine entro il quale aveva la possibilità di scegliere tra la vita e l'aborto terapeutico, no? Il parto, voglio dire, è andato bene. Tu stai bene, quindi quale risarcimento devono chiedere i tuoi? Non ho capito. Vabbè, questo che non so, per questo sono in sbattimento. Perché se hanno chiesto un risarcimento, è perché pensano che io non sia un bambino normale, no? Ma no, ma sì, invece. Ma bambino Alberto, ma guarda cosa va a pensare, ma chissà cosa c'è dietro, sai che sono cose degli adulti, no? Non so mai come sembrano, magari qualche complicazione. Complicate, esatto. No, invece io lo so che i miei genitori pensano che io non vada bene per loro. Ma no, ma adesso non fare ma così. Ma si vede da come mi trattano, ma no? Cosa? Ma perché lo sapete anche voi. Ma tu salti a delle conclusioni tragiche senza motivo. Infatti. Poi tu non dovresti saperne niente di ste cose, risarcimento, tribunale, la funicolo. Sarò pure un bambino, ma non sono mica scemo, No, no, nessuno infatti. Dice così, dai. Anzi, no, visto che i miei genitori hanno fatto caso all'ospedale dove sono nato, e forse sì. Allora avete ragione. Cosa? Sono scemo e quindi fate bene a riempirmi la testa di palle con scolatori. Ma no, adesso si commuove. Ma dai, il giorno prima della recita non puoi ridurti così. Cerca di non pensarci, concentrati sulla parte, che tra l'altro non è una parte impegnativa, certo. Insomma, la stella dell'albero. Ma non ci riesco. Come non ci riesco? Se solo penso che tra un po' tornerò a quel luogo dove non sono desiderato, no? Quale luogo dove non sei desiderato? È a casa mia, no? Ma no, ma come? Cioè, nessuno mi vuole. Ma no. E anche mia mamma. Ma cos'è? Sei diventato piagnucoloso. No, sì, più piccoloso, è qui la perdita dei genitori. C'è la recita, ti vuoi concentrare? Come facciamo? Il bambino Alberto non può fare la recita. No, dai, il bambino Alberto, su, almeno le parti le imparate. Dai, le parti. Vabbè, adesso mi prendete anche in giro, perché adesso voi mi fate anche un po' arrabbiare, però. Ma perché? Cioè, devo fare la parte della stella in cima all'albero e mi devo anche preparare. Vabbè, certo. Cioè, tu devi dire delle cose, perché anche la stella ha un'anima nel nostro mondo di Natale. Sì. L'anima. Intanto io, se avessero fatto l'esame giusto a mia madre, a quest'ora sarei nel limbo dei bambini mai nati. Limbo. Anzi, nel gildo dei bambini mai nati. Every Gilda boy and girl, all around the Gilda world, gonna do the Gilda rock, all around the Gilda block. Jack me Gilda, Jack me quick, Jack go under Gilda dick, all around the Gilda block. Hey, let's do the Gilda rock. Allora, cari ascoltatori, domani assisterete a una classica rappresentazione della Natività con la Madonna che si aggira di albergo in albergo dicendo che è stanca, molto stanca, l'asino, il bue, San Giuseppe, qualche angelo e i Re Magi. Non è vero, non state a sentire Drago, perché l'asino forse ci sarà di Buridano, però è tutto quello che concedo alla tradizione classica della recita. Come avevamo deciso così, scusa? No, quella è la penultima versione. Come sarebbe la penultima versione? Quella che dicevi tu era la penultima versione, poi abbiamo pensato all'ultima, non ti ricordi? No, veramente no, io ero rimasto al bambino Alberto che faceva il bambino Gesù. No, il bambino Alberto fa la stella di Natale. Ma per davvero? Ma certo. Ma io pensavo fosse uno scherzo tra noi. No. E quindi niente natività. Come? Sono cose vecchie quelle, Drago. Dai, facciamo invece un bel incontro pubblico con Babbo Natale. Ma Skype, con il collegamento Facebook. Ma non è vero, non è i vero, sondaggi. Il vero spirito di Natale, cioè, non è questo, dai, il vero capito? Spirito di Natale. Bambini all'ascolto. Ma come? Se venite domani in Via Monterosa 91, vedrete Babbo Natale dal vivo. Sì, proprio lui. Arrivo da Rovaniemi, in Finlandia. Su quale binario? Vabbè, no, vedrete Gesù bambino, ma non proprio lui. Quindi non state a sentire capo. Vedrete Gesù bambino. Però non sarà proprio Gesù bambino lui, perché è un po' difficile da incontrare, meno esposto mediaticamente. Però ci sarà un altro bambino nelle vesti di Gesù bambino. Non è vero, incontrerete il vecchio San Nicola. Non è vero, incontrerete il vecchio San Giuseppe. Vabbè, insomma, un santo lo vedrete, dai. Vabbè, meglio di niente. A domani. Buon Natale.